Tre giorni mancavano al Natale, tre soli giorni. Poche ragazze erano andate a casa, Suor Lorenza le convinceva. È bello il Natale in collegio. Ma a tutte, nonostante la prospettiva dei dolci che stavano forse già cuocendosi, nasceva in cuore un'invincibile nostalgia. A sera parlavano della famiglia, certe dicevano: io la mamma non l'ho più. Ogni pena riaffiorava in quei giorni. Altre parlavano dei fratellini, dei regali di Natale. Invece della letizia dei giorni di vacanza s'era sparsa tra le ragazze una blanda tristezza. Qualcuno avrebbe avuto la possibilità di andare a pranzo nei giorni di festa da parenti, da amici, ma non lo facevano. Meglio essere qui tutte insieme, tutte sole. Dopo la cena, invece di salire nelle camere, si riunivano adesso in una grande sala di soggiorno. Uno stanzone alto e semivuoto, un grande tavolo ovale. Dato il rigore del freddo, avevano ottenuto due grandi bracieri, scrivendo, le mani gelavano. Allora le ragazze s'alzavano e andavano a scaldarle presso il fuoco. Si riunivano tutte, anche quelle di legge, perfino quelle di musica, che formavano sempre gruppo a parte. Stavano vicine, appoggiate l'una all'altra, eppure ognuna era chiusa in sé, profondata in un mondo che le altre non conoscevano, nel quale non potevano raggiungerla. Più tardi, tutte respingevano i libri verso il centro del tavolo, ove s'accatastavano la filosofia accanto alla scienza commerciale. Stanche, le braccia incrociate sul tavolo, prendevano a parlare. Certe sere Emanuela non scendeva con le altre. È da Milly che sta peggio. Anche Augusta mancava. Studiare con le altre, lei che aveva più di 30 anni, le appariva ridicolo, fuori stagione, come l'amore dei vecchi. Le azioni dell'uomo hanno ciascuna la loro età. Per questo forse frequentava poco la facoltà, ma sotto la sua porta si vedeva la luce fino a tarda ora. Leggeva i russi, Anna pretendeva. In questi giorni di Natale, Augusta era divenuta ancora meno socievole. Soltanto chiamava Valentina talvolta, che si intendeva di letteratura moderna, e insieme discutevano. Se Milly non si alza, si dovrà rinunciare ad avere della buona musica per Natale. Nessuno suonava l'armonium come lei. L'anima dello strumento non cantava che sotto le sue mani, soltanto la sua era veramente musica sacra. In camera di Milly, il lume fasciato di carta celeste diffondeva una livida chiarità. La ragazza sedeva nel letto, i capelli sciolti sopra una soffice giacchetta di lana, la testa affondata nel cuscino, un poco riversa, nello sguardo una fissità estatica. Udendo qualcuno entrare, sussultò, ma vedendo Emanuela, ah, sei tu, fece rasserenandosi. Entra, leggevo. Non aveva nessun libro in mano e non avrebbe potuto leggere con quella lampada velata. Emanuela, avvicinandosi, le vide tra le mani un foglio strettino tracciato di piccoli fori con l'orlo rilevato. Milly vi passava sopra i polpastrelli con la stessa levità di quando suonava l'armonium. Anche il suo sguardo era lo stesso, trasognato, vacuo. «M'ha scritto», disse, e mostrò il foglio bianco. Carezzava la lettera del cieco. Vi passava e ripassava le dita, leggermente, gli occhi fissi alla parete bianca, la faccia trasfigurata come per un benessere fisico che dilagasse in lei. «Vedi?» spiegava arrestandosi. «È molto più bello così. Le parole attraverso le dita entrano nei pori, si fondono col sangue. Il nostro essere le assimila come l'aria. Ti accorgi forse tu di respirare? Eppure la vita entra in te, e lo stesso m'accade per le parole di lui». Le mani di Milly sembravano medianiche. «Dice che suonerà anche lui quell'oratorio alla messa di Natale. Bisogna che io guarisca, capisci, Emanuela, per scendere, se no sarebbe un tradimento». «Come ti senti?» «Bene adesso, ma stanotte è stato tremendo. Non puoi immaginare che cosa sia. Chi sta bene neanche s'accorge d'averlo il cuore. Io lo sento invece come se fosse un cuore artificiale. S'apre, si chiude, il sangue pulsa, di colpo affluisce alla gola. Sembra che debba colarmi dalle narici, dalla bocca. Tanto è potente l'onda calda che m'assale. Poi il cuore comincia a galoppare, sempre più forte, sempre più svelto. Tutto il buio si colma del mio palpitare. E infine una mano di ferro mi tira i capelli indietro, giù, giù, riversa nel baratro, e un'altra mano più molle ma inesorabile mi accarezza dapprima la gota, poi stringe, stringe e mi soffoca. Mi occorre tutta la forza per trovare ancora in me un po' di respiro. Ma domani starò bene. Devo scendere a provare l'oratorio all'armonium, capisci? E scenderò. Non puoi ancora. Oh sì, potrò. Riprese a far scorrere le dita sul foglietto, sempre fissando avanti a sé nel vuoto. La sua vita pareva concentrata nel tatto. Pesava attorno un silenzio da stanza di malata grave. Il dottore aveva detto può essere oggi o fra 2 anni, ma è fatale. Intorno a lei si respirava un'umidità di lacrime. Anche quando stava bene, le compagne entravano in punta di piedi. Perché così piano? Ella chiedeva e le metteva in imbarazzo. Dopo Natale, forse il padre l'avrebbe ripresa con sé. Nell'ultima crisi il polso s'era tanto affievolito che Suor Prudenzina l'aveva sentito mancare. Basta, basta di queste responsabilità, aveva detto la sera alle altre. Voleva farla ripartire subito per Milano, a casa sua, diceva. Invece Suor Lorenza aveva scritto al padre: questa vita sana e lieta del collegio potrà giovare molto alla Milly. La notte sognò che Milly era morta e saliva al cielo mutata in cometa. La faccia non si vedeva più, il corpo, i capelli luminosi, incandescenti, formavano la grande scia dell'astro nella sua corsa attraverso il firmamento. Le passavano così vicini da toccarli, una fluente morbidità di seta. Qui il sogno era finito bruscamente, ma la sensazione le era rimasta sulle dita. Milly continuava: Senti che cosa scrive. Anch'io suonerò all'oratorio. Aspetterò quell'ora, quell'attimo, luce dell'anima mia. Oh, debbo scendere a provarlo domani. Luce dell'anima mia, è cieco, lo sai? Che può dirmi di più? Milly era la sola a non soffrire del Natale che si avvicinava, tutta presa dal contatto spirituale con l'amato. Neppure desiderava di vederlo e lui, del resto, anche quando erano vicini, non poteva vederla mai. Comunicavano così, attraverso i pori, o meglio, i loro pensieri li raggiungevano direttamente per l'aria come un'onda di suono, e questo amore non umano li sollevava al di sopra dei limiti del tempo. Emanuela invece si era anche lei intristita in quei giorni. Passeggiava per le strade che fervevano di festa prossima, si soffermava a lungo davanti alle vetrine dei negozi dove gli oggetti esposti formavano una massa compatta. Dietro di lei gente sostava, parlava, gli uomini con le mani in tasca, pensierosi. La ragazza si sentiva esclusa da tutti i riti natalizi. Andava di negozio in negozio, col silenzio che le pesava in bocca, ipnotizzata da quel Natale che vedeva in vetrina. Aveva comperato molti giocattoli per Stefania, perché con ognuno le sembrava di partecipare un poco alla festa degli altri. Il suo Natale era in quella ricerca, in quel peso del pacco sotto il braccio. Quando glieli avrebbe portati la gioia sarebbe stata già finita. Era bello, ancora, perché i giocattoli stavano chiusi nel suo armadio e aprendolo poteva ritrovarli, anche se le sembravano meno belli di quando erano esposti in vetrina. La bambola al negozio pareva viva. In camera, Emanuela la trasse dalla scatola, la prese in braccio, la strinse a sé, la scostò, la contemplò. Era splendida. Tornò ad abbracciarla, credendo così di suscitare in sé un po' di tenerezza, ma restò freddissima. Si ricordava che da bambina le accadeva lo stesso. Si estasiava davanti la vetrina, affascinata, e avuta la bambola la portava a casa in braccio fieramente, ma quando la mamma le diceva «Gioca!» e la lasciava sola con la bambola, lei non sapeva che farne. Le bambole a quell'epoca avevano gli occhi fissi, due rigide pupille di cristallo, i denti bianchi, aguzzi nella bocca di porcellana. Stupida, Emanuela le diceva piano, stupida. Questo era il loro solo colloquio. Talvolta la spogliava, palpava le giunture, il merlettino della camicia, la rivestiva senza divertimento e poi l'abbandonava sulla poltrona. Una volta le dette uno schiaffo e si irritò perché quella seguitava a sorridere. Disgustata si avvicinava alla finestra, appoggiava il viso al davanzale, seguiva i voli delle rondini, le nuvole che vagavano e mutavano forma. Quello era il suo gioco preferito. La mamma la sorprendeva così. E la bambola? Poi diceva al marito: Anche la piccola ha la smania di stare alla finestra, come te. Qualche volta veniva un'amichetta a trovarla. Subito Emanuela le proponeva di giocare con la bambola. Era curiosa di sapere come facessero le altre a divertirsi con quella cosa di stoffa e porcellana. E quella cominciava a parlare alla bambola con una strana voce in falsetto. Poi con mani abili la spogliava, la rivestiva. Non sentiva ribrezzo di quella morta nudità. Anche Emanuela allora provava, ma subito doveva smettere, non sapeva trarre fuori una simile voce, i suoi gesti erano maldestri e non si divertiva. L'amica scuoteva il capo. Non sei una vera mamma tu, si capisce che è un gioco. Era goffa anche con Stefania, eppure ogni domenica vedendola provava una grande emozione. Forse perché Stefania era così dura, mai un bacio che venisse di impeto. O forse colpevole era lei. Non sono simile alle altre, pensava, e continuava a comprare giocattoli come facevano le altre mamme. Le compagne si inasprivano adesso che si avvicinava il Natale. Perfino Vinca non era più allegra, non diceva più nulla contro le suore. Anzi, una sera aveva chiesto in tono umile: «Ci faccia passare un bel Natale, suor Lorenza». Il giorno prima Luis le aveva detto: «Prendiamo il tram». Un lungo giro, la linea fiancheggiava il fiume, passarono sul lungotevere frondoso di platani alla Lungara. Anche lui si era immalinconito dalle prossime feste. «Non è Natale questo qui», diceva. «Natale è quello del nostro paese, qui non si può mangiare neppure il porcellino di latte infarcito». Ne ho parlato alla padrona di casa, ma ha sbarrato gli occhi in faccia. «Noi», ha risposto, «a Natale mangiamo il cappone». Vedo già la gran bestia bollita, le zampe all'aria. E poi mangiano certi dolciumi duri come sassi. Vinca, che era in Italia da 3 anni, già conosceva tutto ciò. Infine scesero. Il ragazzo la guidò per vecchie strade, dalle finestre strette, soffocate di panni stesi, la città vecchia dove a lui piaceva abitare. «Qui respiro meglio», diceva. «Le donne sono simili alle nostre donne. Il popolo si assomiglia in ogni latitudine. Vedi i geranei alle finestre? Solo il popolo mette i fiori alle finestre. Mai le signore hanno un fiore sul balcone. Le fanno morire nei vasi dei salotti. Qui ci sono fiori alle finestre come in Spagna». Si fermarono in un larghetto dove c'era un portoncino con un bel fregio del Rinascimento. «Ti piace?» Luis le chiese. «Molto», rispose lei, e con lo sguardo scorse la facciata. In alto, la gran lastra di vetro di una finestra, facendo specchio alla luce crepuscolare, s'accendeva di rosso. «Vedi lassù?» egli le indicò. «È il mio nuovo studio. Forse avevo dimenticato di dirti che ho cambiato casa. Abito qui con un compatriota. È più libero. Mi piace di più, anche se è lontano dall'accademia. Vuoi salire?» «E quell'altro?» «Oh», fece lui con un sorriso malizioso. «Sapeva che venivo, se n'è andato». «No, grazie», rifiutò Vinca decisamente. «Perché non sali? Di lì si vedono certi tetti di ardesia, certe vecchie terrazze». «Tientele», lei replicò con durezza, «io non le vedrò mai». «Sei una sciocca», egli insisté tirandola per il braccio. «Vieni su, di che cosa hai paura?» «Non ho paura, ma puoi fare a meno di telefonarmi se speri che col tempo ci verrò. Ora rientro in collegio». Si incamminò irritata e Luis la seguì in silenzio. Sboccarono dal quartiere vecchio sul lungotevere già buio. I lampioni, riflessi nel fiume, lucevano come stelle cadute. Luis la teneva per il braccio ed ella andava di passo svelto, desiderosa di lasciare il quartiere, di liberarsi di lui. Egli si fermò per accendere una sigaretta. C'era vento, faceva schermo alla fiamma con le dita. Lei attese un momento, poi, spazientita, riprese a camminare. Pensava a Xenia. Certo era andata via con uno così. Tutto finisce in questa maniera, prima o dopo. O forse Valentina aveva ragione, Xenia si era buttata nel fiume. A certi momenti non si vede altro mezzo per liberarsi dello schifo di questa porca vita. Lui se la raggiunse. «Perché scappi?» le chiese. Vinca non rispose. Lei stessa non sapeva perché correva così. Ormai la casa era lontana e del resto un attimo solo era rimasta incerta, abbagliata dalla lastra dell'alta finestra, e s'era ripresa subito padrona di sé. Altre coppie passeggiavano lungo il parapetto del fiume. Forse a ognuna di quelle donne il compagno una sera aveva detto: «Vuoi salire da me?» Ormai che aveva risposto di no, era inutile affrettarsi. Eppure non vedeva l'ora di lasciarlo. Quasi temesse, finché lui s'era lì, che vi fosse ancora la possibilità di tornare indietro. «Perché non se ne va? Che aspetta? Intanto da lui non ci vado, e neanche al cinema mai più. Non correre così, Vinca! Se vuoi me ne vado!» «Sì, vattene, vattene!» gli soffiò ostiosa. «È andata male, vero? Che stai più a fare qui?» Zitto, il ragazzo seguitava a camminarle a fianco, sotto braccio, e lei attendeva che parlasse per potergli rispondere, per sfogarsi. «Domani mi metto a studiare, notte e giorno», pensava. «Come Silvia, come Silvia! Basta, basta di questa disgustosa storia! Neppure mi parla! Cinico, neppure dice scusami, ti voglio bene. Luis regolava il suo lungo passo ai passi di lei arrampicati su tacchi alti. A Piazza di Spagna si fermarono. Era già buio, i fiorai riponevano i fiori nei cesti e loro due venivano a piedi dal Trastevere. La stanchezza pesava nei ginocchi della ragazza. Addio, gli disse duramente e si armò contro quello che lui avrebbe detto. Ma lui rispose solamente addio. Si toccò il capello e s'allontanò. Vinca rimase ferma, sperando che gli tornasse indietro. Adesso che se n'era andato, avrebbe dovuto corrergli dietro, richiamarlo. Luis! Andare a cercarlo nella trattoria dove mangiava. Sì, ci vengo, purché tu non mi lasci così. La trattoria doveva essere lì vicina, presso il fiume, neppure sapeva dove. Egli le nascondeva tutto. Aveva cambiato casa senza dirglielo. Vado con gli amici, diceva. Che amici? Architetti. E con quella parola le escludeva dal loro mondo. Spesso diceva gente di architettura e faceva intanto una mossa vaga con la mano. Tante volte l'aveva cercato di accostarsi al lavoro di lui, ma Luis scrollava la testa. Non puoi capire, è inutile. Non le parlava mai del suo lavoro. Gente di architettura, diceva. E adesso era andato con loro. Sempre in ritardo tu, la suora le rimproverò vedendola rientrare. Rientrerò presto domani. Domani è la vigilia di Natale. Bel Natale si preparava. Bisognava finire, finire. L'anno passato, quando l'aveva conosciuta, egli le aveva chiesto: Sei fidanzata? No, e tu? Io neppure, ma c'è una ragazza in Spagna. A casa mia volevano. A me piace vivere libero. E lei pronta. Come si chiama? Dopo un attimo di esitazione, lui si aveva risposto: Si chiama Sol. Adesso quel nome tornava a ossessionarla. Sol, Sol, Sol. A Sol forse non avrebbe offerto di salire lassù, dietro quella vetrata incendiata dal tramonto. Bisognava studiare, studiare, studiare, non più preoccuparsi di altro. Luis le domandava sempre, quando dai gli esami? E la scuoteva, la trattava male. Che fai tutto il giorno? Studia! La incitava. E lui intanto oziava con l'agente di architettura. Vinca salutò appena le compagne sedendosi a tavola, poi respingendo il piatto fece: Non mangio questa roba. Emanuela le mise la mano sul braccio. Vinca, abbi pazienza. Perché mi dici questo? Perché so che tu pensi al tuo paese. Che cosa mangiate in queste serate? Aringa, carpionata e baccalà con salsa di pinoli. Si mangia tardi la sera, alle 11. S'accendono le candele sulla tavola. Aveva scostato le posate. E incrociato le braccia sulla tovaglia, seguitava a parlare appassionata. Si appende l'uva, passa ai candelabri, ma adesso chissà che cosa c'è laggiù. Certe chiesette dove andavamo la messa di Natale sono distrutte, gli amici dispersi e la calma nelle Asturie non è che apparente. Mi sento così distaccata dal vostro Natale. Oh, tutte siamo malate come te, disse Silvia. Anche se siamo in patria, io ho scritto ai miei stasera. Augusta pensa alla sua grande cucina dove sono appesi i sonagli e le selle. Valentina si era alzata, era andata vicino a Vinca, le aveva messo una mano sulla spalla. Vuoi che anche noi domani accendiamo le candele sulla tavola, come al tuo paese? Deve essere suggestivo. Oh no, sembrerebbe un funerale. Ma il Natale non è nel cibo, è nel cuore, disse Augusta. Sì, approvò Silvia, e noi siamo stonate perché siamo uscite da una consuetudine senza essere ancora entrate in un'altra. Il Natale è di chi non ha più o non ha ancora un pensiero dell'avvenire, dei vecchi o dei bambini. Io mi struggo stasera per la mia casa, e in fondo è una casa povera. I fratellini strillano, sono noiosi, papà e mamma ormai non mi capiscono più, ma è la mia famiglia, insomma. Eppure, continuò. Sempre più mi convinco che è un desiderio, uno struggimento immaginario, perché noi in realtà siamo già distaccate dalla famiglia. L'amiamo ogni giorno un po' meno. È un'abitudine soltanto. Un'abitudine. Ormai dopo anni di collegio sentiamo solo il dolore del distacco, la gioia del ritrovamento. Ma idealmente, più che altro, una concessione che facciamo al nostro sentimento, non è il sangue. È vero, insisté Manuela, non è il sangue. Se a una madre presentano il bambino che le è appena nato, lei lo ama, anche se glielo hanno cambiato, anche se è un altro. Credo che l'amore materno dapprima sia un dovere. Si sa che si deve amare quel fagottino di carne, dare la propria vita per lui se è necessario. Poi è l'abitudine. Già, Silvia riprese. Mia madre dice sempre, ogni giorno che passa viviamo di più. Perché l'abitudine si consolida, si fortifica. Adesso che sono lontana mi ama differentemente dalle altre figliole. Oh, non credo, fece Anna. Sì, invece, prega per me a sera, come dice il requiem per i morti. Basta, basta, proruppe Vinca. Non parlate più di tutto ciò, impazzisco. Dio, come si sente la mancanza di quello che a casa appariva naturale. E poi, per me, ci sono altre cose stasera. Mi sento disorientata, ho paura di quello che verrà domani. Già, riprese Anna, avremmo bisogno di appoggiarci ai muri di casa per sentire una certezza. Le ragazze che sono in famiglia non sentono questa responsabilità, si lasciano vivere. Noi, invece, guardiamo all'avvenire come a un vuoto oscuro. Xenia vi è precipitata. Chi di noi ogni tanto non pensa a Xenia? Quando ormai non sapeva più come fare per vivere, Xenia aveva trovato un posto di commessa in un negozio di guanti. Lo doveva a una nuova conoscenza, una ragazza che aveva incontrato aspettando negli uffici di collocamento. Una buffa ragazza grassoccia della sua stessa età, ma sveglia ed esperta, che già aveva pratica delle attese inutili. Questa ragazza, la quale si chiamava Vandina, era stata assunta da una società mineraria perché conosceva la stenografia. Molto più utile la stenografia per vivere di tanti libri che Xenia aveva letto. Erano state a mangiare insieme e Vandina aveva offerto il pranzo per festeggiare l'avvenimento. Ma tu non sai fare, non sai arrangiarti, diceva a Xenia. Perché ti ostini a volere un impiego? Hai letto che i grandi magazzini cercano commesse? Ah, non storcere la bocca, domani non potrai mangiarti i volumi dell'università o il diploma della licenza liceale. Bisogna adattarsi, ecco il grande segreto. Intanto si lucidava le unghie col tovagliolo. Cambierai dopo. Non devi morire ai magazzini. Lì si accontentano più facilmente per le informazioni di che si rivolgano a me, di che sono una cugina, di quello che ti pare. Ti daranno pochi soldi, vedrai, ma ti serviranno per le calze, il rosso delle labbra e per mangiare una minestra invece del caffè latte. Andiamoci insieme, vuoi? Niente ai grandi magazzini. Fu assunta invece da un guantaio perché sapeva il francese e fuori c'era la scritta On parle français. Entrare subito il giorno dopo, al vederla così distinta e riservata, al sentirla parlare, neppure chiesero le informazioni. Uscendo, Vandina le disse: Hai visto? Così si fa. E intanto si comincia. Una di queste sere ti farò conoscere certi amici, gente che è nel commercio, grosse aziende, e si troverà qualcosa di meglio per te. Questa incerta promessa aiutò Xenia a sopportare il disagio del quale soffrì al negozio del guantaio. Anche i proprietari si trovarono in imbarazzo con lei che, cortese e abilissima coi clienti, era invece, senza volerlo, ostile alle colleghe. Non apprezzava il loro modo di parlare, gli argomenti dei loro discorsi. Anziché chiacchierare con loro, preferiva guardare da dietro la vetrina passare la gente, le automobili. La disgustava il continuo contatto con le mani degli altri, che ella doveva, sorridendo, carezzare sulle dita le giunture. Quando riaccompagnava il cliente alla porta, restava un po' a respirare l'aria fredda di fuori, finché di dentro giungeva una voce: Oh, chiudi, chiudi! Vuoi farci prendere una polmonite? A sera rientrava stanca nella stanza e mangiava un panino imbottito, rannicchiata sulla sedia, leggendo per tenersi compagnia. Talvolta la notte sognava che c'erano tanti clienti nel negozio e lei sola a servire e tante mani tese verso di lei che si esauriva in quel movimento di strofinare le dita altrui. Non c'era più polvere di talco nel barattolo, per ogni paio impiegava moltissimo tempo. Gli altri clienti si impazientivano, pestavano i piedi finché i padroni scontenti la cacciavano via e lei doveva ritornare a Veroli. Aveva scritto a casa dicendo che si era impiegata in un ufficio e presto sarebbe tornata. Stava studiando per ritentare la tesi. Mamma le aveva mandato un golfo di lana perché Milano è una città fredda. Vandina venne a prenderla due volte all'uscita. Raccontò che all'ufficio si trovava mica male. Il commendatore aveva preso a proteggerla, ma la segretaria, che si capiva era l'amica di lui, le faceva la guerra. Se ne sarebbe andata presto. E poi lo stipendio era pochino. Adesso veniva l'inverno e aveva bisogno del paltò. Molte cose di questa ragazza spiacevano a Xenia. Certe espressioni che fiorivano i suoi discorsi, quell'insistente occhieggiare gli uomini che passavano, i capelli biondi opachi, arruffati, e però quando la vedeva Si sentiva incoraggiata dal viso stesso di lei, pienotto, vivamente dipinto di rosso sulle guance, da quella certezza di arrivare, arrivare, come sempre diceva. Anche Xenia, suggestionata, ripeteva: sì, arrivare. Presto il chiacchierio di Vandina la stancava, ma temeva la solitudine della sua stanza, dove tutto era povero e squallido. Era stanca di leggere. Non poteva comperare libri nuovi. I libri di studio avevano la polvere sopra. Capiva che era inutile ritentare. E perciò, quando l'amica faceva per lasciarla, aspetta ancora un po', la pregava. Ma Vandina aveva sempre da fare. Amici, diceva, o più spesso, il mio amichetto. Una sera Vandina, arrivando, le disse: senti, ho pensato a te, non voglio che resti sola domani sera, la sera di Natale. Verrai a cena con noi? Oh, dove non lo so. Decideremo. Vengono con la macchina. Vedessi che macchina. Chi sono? Amici in gamba. Gente che un giorno potrebbe aiutarti a tirar fuori dalle 350 lire del negozio. Domani hai anche il pomeriggio libero. Come lavori fino a tardi? Che barba! Come puoi fare a restare ancora là dentro? Io avevo mezza festa, ma ho detto al commendatore che volevo avere libera giornata. Bisogna che tu ti vesti elegante e ti dipinga un po', eh? Ho annunciato che sei una bellezza. Vero? Vero? Non te ne accorgi che per strada ti guardano tutti? Xenia aveva un solo vestito e l'amica offrì di prestargliene uno. Sei più alta, ma io sono più grassa, una cosa per l'altra. Dovrebbe andarti. Sali da me a provarlo. Abitava come Xenia a subaffitto, ma la camera era arredata pretenziosamente a salottino. Entrando, sbatacchiò l'uscio, parlò forte. Il vestito poteva andare, andava bene, anzi. Vandina la guardava ammirata. Oh, che bel corpo hai! E poi è inutile, è vero quello che ho pensato appena t'ho vista. Tu hai l'aria distinta. La sera dopo Xenia andò a vestirsi da lei. Mai la giornata le era sembrata tanto lunga al negozio. Si vestiva e intanto raccontava: Vandina, quanta gente! Sembrava che tutti si fossero ricordati oggi solo di avere un paio di mani da coprire. Il padrone non voleva lasciarmi uscire, sai? Per quelle poche lire che mi dà, dici bene tu. Alla fine, dopo aver accompagnato un cliente, sono andata a mettermi il cappello, mezz'ora dopo l'orario di uscita, capirai? E passando dinanzi alla cassa, molto cortesemente ho detto al padrone: buonasera, buon Natale. Si capiva che avrebbe voluto trattenermi, ma non ha osato. Era eccitata, aveva temuto di passare il Natale sola nella sua stanza, udendo la festa nelle vie fino a notte inoltrata. In strada, una macchina americana le aspettava. Uscendo dal portone, Vandina le sussurrò: te l'avevo detto, eh? Guarda che roba! Due uomini, giovani, vestiti con esagerata eleganza, sciarpa al collo, pelliccia, scesero, salutarono. Vandina presentò Xenia, salirono e la macchina partì. I tre parlavano animatamente. Vandina si sporgeva sul sedile, nominando persone, luoghi ignoti a Xenia, che taceva e, non volendo sembrare sciocca, sorrideva ogni poco. Gli uomini non le rivolgevano la parola. Vandina sembrava non ricordarsi più di lei. Al ristorante la tavola era prenotata e dei due uomini, uno, il più giovane, pareva essere molto conosciuto. Due orchestre suonavano. Quando l'una taceva, l'altra attaccava. La tovaglia era lucida come seta, i bicchieri leggeri, leggeri. Quando si trattò di ordinare il vino, il giovane che chiamavano Dino ordinò champagne. Subito Vandina dette una gomitata all'amica come per dire: vedi? Sì, Xenia vedeva. Gli uomini finalmente si accorsero di lei. Fu nel chiederle sogliola o aragosta, che Dino, la lista delle vivande in mano, si incantò a guardarle gli occhi e disse, rivolto a Vandina, come se Xenia non fosse presente: avevi ragione, è proprio bella la tua amica. Si cominciò a parlare del negozio di guanti. Xenia parlava vivacemente, come se fosse una cosa già sorpassata. No, no, davvero, non poteva rimanere lì, in mezzo alla volgarità di quella gente. E mentre parlava, beveva. Il vino non le piaceva, ma le piaceva il gesto del bere, quel dondolio del liquido nel bicchiere fine. Certe volte, mentre gli uomini parlavano, si distraeva da loro e osservava intorno. Sì, questa è veramente festa, veramente Natale. Non le dispiaceva neppure di dover tornare al negozio del guantaio, neppure di essere lì col vestito di Vandina. L'essenziale era di esserci. Arrivare, arrivare, bastava volere. Non era già qui a bere autentico champagne? E gli altri a quest'ora? A Veroli le strade sono buie, scoscese. Le famiglie si riuniscono attorno al panettone che ha già il coltello infilato nella pancia. Le solite facce, quell'ambiente meschino. Se l'avessero vista lì sarebbero morti di rabbia. E ai Grimaldi? Tolta Emanuela, che era una vera signora e bisognava assolutamente restituirle quel denaro, le altre tutte pezzenti che sudano sui libri. Adesso la gente del paese le appariva mista alle compagne del collegio come attori di una pellicola vista tanto tempo fa. Sbiadita. Ballarono fino a tarda notte. Vandina, che aveva bevuto troppo, raccontava barzellette piccanti con un volto da scolaretta in vacanza. Dino aveva avvicinata la sua sedia a quella di Xenia e macchinalmente tirava palline di cotone colorato sulle spalle di quelli che passavano, come se ciò fosse un vero divertimento. Andarono via tra gli ultimi, ma non avevano voglia di andare a dormire. Dicevano: andiamo altrove, altrove. Vagavano per le strade con la grossa macchina, s'arrestavano, scendevano, entravano in ogni locale aperto, ma ovunque era troppo triste. Dicevano, non volevano rimanere e poi finirono per andare a prendere la cioccolata calda in una latteria della periferia, dove c'erano già tranvieri che prendevano in fretta il caffè. Al portone di Xenia scesero e si salutarono con effusione. Si sarebbero ritrovati presto, assai presto, domani, no? Vandina l'accompagnò nell'androne, le dette un bacio, le disse auguri e poi aggiunse sottovoce: che signori, eh? Tanto denaro, cena, champagne e poi, hai visto? Neppure un bacio.